Do un caloroso benvenuto da parte della Biblioteca Provinciale e vi ringrazio di essere numerosi, nonostante appunto questo nuovo orario inconsueto, che però è tutto da sperimentare. Ecco, quello che ci frena un pochino è che, essendo in un condominio, non possiamo proporlo spesso, ma ogni tanto ci fa molto piacere, soprattutto se le occasioni sono come questa, di presentare il lavoro della Fabbrica del Tempo. Questa serata dedicata all'Arcipelago della Memoria ripercorre un po' le tappe dei progetti portati avanti da questa associazione, che ringrazio di essere venuta qui in biblioteca. Ringrazio il suo presidente, il dottor Rosani Tiziano, che conosciamo da tanto tempo e ci ha tenuto a battesimo quando è nata questa biblioteca, no? Possiamo dire. Ecco, ringrazio anche la dottoressa Alessandra Zendron, che da anni ci aiuta in parecchie occasioni anche nel presentare dei libri e ci accompagna anche con la sua attenzione, la sua professionalità. Questa è una biblioteca piccola, siamo in questo posto provvisoriamente e ci occupiamo anche del locale con grande passione e grande interesse. Quando troviamo delle associazioni che lavorano con cura, con amore e con grande professionalità, come è il caso della Fabbrica del Tempo, siamo particolarmente contenti, ecco, di poter così dare questo spazio, apprendere sempre cose nuove e soprattutto anche mettere poi a disposizione i libri, che sono dei piccoli gioielli. Ecco, abbiamo avuto anche riscontro, tante persone ci hanno chiamato per dire che anche queste fotografie, questo invito è veramente molto bello e di grande suggestione. Ecco, io vi ringrazio, passo la parola subito al presidente dottor Rosani, vi auguro una bella serata e spero di rivedervi qui in questa biblioteca. Il nostro motto è quello di cercare sempre di dare una buona occasione per tornare qui da noi. Grazie a tutti e soprattutto ringrazio anche l'assessora Trincanato, che ci ha fatto il piacere di essere qui con noi questa sera. Grazie, grazie a voi. Grazie Valeria e buon compleanno, se posso dirlo, perché oggi Valeria compie gli anni. Non potevi sfuggire. Oggi noi presentiamo un progetto sperimentale, l'abbiamo chiamato Arcipelago Memoria, è un progetto che abbiamo sviluppato nel corso di 3 anni, soprattutto dal 2008 al 2011, inizio 2012, in 2 realtà differenti, tra l'altro anche un po' distanti tra loro, volutamente differenti. Una è la realtà di Vadena, questo paese direi suggestivo, bellissimo, se posso dirlo direttamente al sindaco di Vadena che è qui presente, che spero venga mantenuto anche nella sua conformazione urbanistica con queste bellissime frazioni, poco noto forse perché un po' discosto, soprattutto sulla parte orografica destra principalmente, ma anche, voi sappiamo benissimo, c'è una frazione importante sull'altro fronte, sulla parte orografica sinistra dell'Adige, quindi una zona sicuramente molto interessante, molto particolare. E lì abbiamo fatto un lavoro su tutte queste frazioni, su tutte queste diverse comunità. A Lana invece qui abbiamo un consigliere che ci ha aiutato decisamente e ha fondato insieme ad altri amici il gruppo di lavoro Arcipelago Lana, Gabriele Agosti. Abbiamo lavorato soprattutto sulla realtà della comunità italiana, che come numeri più o meno assommano al complesso della comunità complessiva di Vadena. Era anche un problema di numeri, cioè di poter fare un lavoro su un numero di persone relativamente circoscritte in modo da poter fare un lavoro di carattere sistematico. Dicevo lavoro sperimentale perché era un tentativo, abbiamo provato a vedere cosa succede se si fa una raccolta di memoria popolare, di memoria fotografica, però fatta in maniera, adesso usiamo questo termine grosso, professionale, con degli archivisti, con delle persone che schedavano il materiale, con una partecipazione forte da parte della comunità e quindi con una raccolta non casuale, magari fatta da un singolo ricercatore o da 2 ricercatori, ma proprio da gruppi di lavoro che poi alla fine hanno coinvolto, tra una cosa e l'altra, sia Lana che Vadena, centinaia di persone, no? Ecco, questo era un po' l'esperimento che abbiamo voluto fare. Lo abbiamo presentato ovviamente tramite mostre, tramite pubblicazioni, qualcosa del vedete anche qua, qualcosa vedete poi anche sul tavolo che abbiamo allestito nella parte finale della sala, però certamente questo materiale non lo avevamo ancora presentato nella realtà di Bolzano e quindi vogliamo presentarlo anche in questa sede. Alcune riflessioni penso potremo farle insieme, quindi questa non è solo una serata di presentazione del materiale ma anche un po' di riflessione sul materiale, sulle modalità con cui è stata raccolta. Una delle riflessioni è l'enorme partecipazione che viene poi a svilupparsi nel corso dell'opera, nel corso degli anni, presso queste comunità, se effettivamente c'è un'idea di creare una comunità, cioè di raccogliere quelle che sono le memorie dei singoli e delle famiglie, di trasformarle in una memoria collettiva, allora naturalmente il discorso diventa particolarmente interessante, coinvolgente e direi anche emozionante per certi versi. Io ho presente diversi casi di persone che magari non sono degli storici con la S maiuscola, non hanno mai preteso di esserlo, ma sono persone che hanno fatto un lavoro eccezionale in queste comunità e hanno raccolto quello che magari altri storici o altre persone o altri ricercatori non sarebbero mai stati in grado di raccogliere. Quindi anche questo grado di fiducia che è fondamentale per poter raccogliere questo materiale, diversamente non si potrebbe fare. Se non ci fosse stato l'apporto dei gruppi di lavoro in loco e delle istituzioni naturalmente, mai saremmo riusciti a fare questo lavoro e quindi a raccogliere all'ANA quelle migliaia e migliaia di fotografie. Ne presenteremo una parte assolutamente minima questa sera e altrettanto ovviamente nella realtà di Vatela. L'altra riflessione è la necessità però di fare anche su una raccolta di questo genere un lavoro un po' certosino, un po' sistematico, un po' puntuale, un po', come dire, attento agli aspetti storici complessivi, cioè non è una cosa banale. Ecco, questa forse è la lezione che ci permettiamo di proporre, che in fondo anche noi abbiamo avuto, cioè che un'operazione di questo genere non è una cosa che si fa in pochi mesi, non è una cosa che si possa fare semplicemente raccogliendo delle fotografie e pubblicandole su un giornale così come viene con didascalie che magari a volte sono corrette, a volte lo sono molto meno. No, non è assolutamente possibile per fare un lavoro corretto agire in questo modo e bisogna lavorare in maniera diversa. Noi oggi abbiamo il piacere di avere la dottoressa Trincanato qui presente, non è solo un piacere perché rappresenta oggi qui la città di Bolzano, credo ci sia anche un significato ulteriore. La dottoressa Trincanato sa molto bene che noi abbiamo fondato questa associazione anche nella città di Bolzano, abbiamo lavorato, che ci sono alcune pubblicazioni più presenti nella città di Bolzano, e che la nostra intenzione in fondo è proporre cose di questo genere anche in realtà diverse, non so se sarà la città di Bolzano o altre, però certamente il ragionamento che abbiamo proposto è in fondo il ragionamento che avevamo proposto 19 anni fa con la proposta del Museo delle Semirurali. Altro non era se non una sorta di arcipelago memoria, cioè una raccolta sistematica di materiali che avrebbe potuto portare ad un radicamento naturalmente molto importante di tutte le comunità all'interno di questo territorio cittadino. Poi ovviamente una serie di difficoltà hanno fatto sì che questo progetto, come dire, proceduto con molta lentezza. Noi invece non potevamo certamente fermarci, siamo andati anche a operare in altre realtà, ma come dicevo alla dottoressa Trincanato credo qualche mese fa, l'intenzione è ovviamente anche di tornare sulla città di Bolzano anche su progetti specifici come questi. Abbiamo presentato poco tempo fa una pubblicazione che ha riguardato certamente anche la città di Bolzano, questo libro sulle opzioni rilette che abbiamo dedicato alla memoria di Christoph Hartung von Hartungen. Lo voglio ricordare anche in questa sede, credo che poi lo farà senz'altro anche Alessandra Zendron, perché lo stesso Christoph ci ha accompagnato per molti anni all'interno anche di questo tipo di lavoro, sia l'ANA che certamente anche a Vatene. Quindi da questo punto di vista la sua partecipazione, la sua memoria è molto molto preziosa. Chiedo alla dottoressa Trincanato di portare un saluto a nome evidentemente della città di Bolzano. No, io ringrazio per l'invito, sicuramente come ha detto il dottor Rosani che questa sera presenterà questo progetto, perché è un progetto come è stato evidenziato, è un progetto sicuramente interessante. Come abbiamo sentito, la raccolta di testimonianze, di materiali di tutte queste persone è un tesoro di grandissimo valore, e questo lavoro che poi insomma viene fatto dagli storici, la raccolta, adesso guardo Alessandra Spada che è davanti a me, cioè la raccolta delle testimonianze, la raccolta di questi materiali fanno sì che noi naturalmente riusciamo a godere e a capire la storia, ma fanno sì anche che appunto questo tipo di interventi creano comunità. E credo che la storia, oltre che naturalmente farci conoscere il passato e farci conoscere quella che è stata insomma il nostro percorso, il percorso di una popolazione, debba servire anche a ritrovarsi nella storia. E questo è un lavoro che sicuramente va in questa direzione. Io vi ringrazio, ringrazio Alessandra Zendrone e ringrazio Tiziano Rosani. E auspico che un progetto come questo, perché no, Bolzano ha dei numeri diversi, però a Bolzano ci sono tante comunità, lo dicevamo poco fa, perché qui le comunità tendono sempre di più a rimpicciolirsi, no? Nel senso che si parla di un paese, si parla di una città, ma poi dentro la città ci sono i quartieri, ci sono le vie, ci sono i condomini, cioè veramente ognuno, no, tende un po' a chiudersi in comunità sempre più piccole. Anche su questo forse dobbiamo riflettere e capire, certo, come capire queste comunità. Io vi ringrazio per il lavoro e ci vediamo presto allora, spero. Va bene? Grazie a tutti per la vostra presenza. Sì, effettivamente questo insieme di piccole e microbe comunità era un problema che avevamo anche, se vogliamo, a Vaden, no? Con le tante frazioni, e una delle cose, delle prime cose che ci siamo detti con il sindaco Beatti era: attenzione, tutte le comunità siano coinvolte, facciamo in modo che tutte le frazioni possano effettivamente essere coinvolte, cosa non semplice, no? Perché non è così, così automatico, bisogna trovare gli informatori, bisogna trovare i collanti giusti, però io penso che ce lo dirà, se è così, il sindaco Beatti adesso, perché gli chiedo di portare un saluto, credo che ci siamo in parte anche senz'altro riusciti. Sentiamo però la parola viva del sindaco di Vaden. Grazie Presidente, un caro saluto anche da parte mia, cara collega Patrizia Trincanato. Allora, ha perfettamente ragione il Presidente Tiziano Rosani, è stato fatto un grandissimo lavoro. Voglio fare un piccolo preambolo però, anche per presentare un po' il paese, perché Vaden ormai sui giornali specialmente conosciuto per ben altre cose. Vabbè, non ve le descrivo per non rovinarci la serata vicenda, però insomma è un po' così. Ecco, guardate questa immagine qua, per esempio, guardate la becco al volo, questa non esiste più. Questo è stato, io lo definisco un errore urbanistico, che è stata demolita per farci una villetta, no? Vabbè, insomma, perché mi è capitata così, però insomma possono succedere anche queste cose, le memorie servono poi anche per capire gli errori che non si devono fare. Allora, la fortuna di essere sindaco di un paese piccolo è quella di poter seguire più o meno tutto. Fortuna è sfortuna, insomma, io la ritengo una fortuna, poi dipende dal punto di vista, però l'assessore Trincanato che è qui sa benissimo che in un comune grande le specializzazioni sono estremamente spinte, mentre in un comune piccolo, bene o male, il sindaco ha un po', non dico il controllo, però insomma tutti vengono da lui, no? Dagli assessori poco, più che altro diciamo al sindaco sempre, parlo un po' in dialetto così ci capiamo, insomma. Ecco, per quanto riguarda i lavori pubblici, ad esempio, è vero, le scelte che vengono fatte restano poi in paese proprio dal punto di vista, come dire, concreto. Se uno sbaglia una scelta poi la paga, e soprattutto io lo vedo dalle scelte sulla viabilità, sull'urbanistica, sono state fatte errate negli anni scorsi, ma anche molti anni fa, si pagano tuttora. Vedo qui la dottoressa Spada, giusto? Riguardo, non so se era lei al campanile Birti, no. Ecco, è stato prego? Silvia Spada, ecco. Stavo dicendo, uno dei progetti più interessanti in assoluto che ho seguito è stato ad esempio il restauro di un campanile del fine 1200, cioè l'epoca del Dante Alighieri, tanto per dire, ho avuto la fortuna di seguirlo dall'inizio fino alla fine. Sono cose che ti permettono di salire su queste strutture e di, come dire, assaporarne poi la storia, perché non capita tutti i giorni di restaurare cose del genere. Un altro progetto che ho seguito è proprio questo. L'Arcipelago Vadena è stato un progetto che è durato molto, direi, no? Sui 3 anni, forse anche abbondanti, che ha coinvolto all'inizio, vedo qui l'amico Fabrizio Miori, insomma, che ha seguito anche lui, perché poi la famiglia, insomma, ha passato molti anni in quel di Vadena, quindi lo ringrazio anche per aver spinto questo progetto. Dicevo, è stato uno dei progetti più interessanti perché all'inizio ha fatto un po' di fatica a decollare, perché guardate, la raccolta di foto sono comunque cose molto private, molto personali, che a volte si fa fatica a dare, non so il perché, però insomma ognuno di voi magari ha delle foto e dice beh, no, questa non la do perché ho dei ricordi particolari, quindi ha fatto un po' di fatica a decollare, ma poi devo dire, sull'onda ad esempio delle presentazioni intermedie che sono state fatte, la gente veniva e si rendeva conto del lavoro, intanto estremamente professionale. Tiziano Rosani è umile, vi posso assicurare che il lavoro è molto professionale e questo in termini di risposta poi paga parecchio, perché la gente si rende conto che il lavoro è serio, che c'è gente seria dietro e quindi è più disposta poi a dare le informazioni, le notizie, di scrivere le foto, e da lì poi in effetti era partito, no? Come dire, il progetto si è autoalimentato, è andato avanti finché ha portato ad esempio alla presentazione anche dei video di persone, interviste fatte a persone, qui non vedete, però persone, un paio delle quali già oggi non ci sono più. Uno era il negoziante del paese che conosceva vita, morte e miracoli, è mancato purtroppo 2 anni fa, sì, un anno e mezzo fa. Ecco, questo ad esempio, vedete, anche da, ogni foto per me ha un significato, magari uno vede questa roba qua e dice oh, è un ponte. Ecco, questi erano i vecchi ponti sul fiume Adige, venivano costruiti in legno, duravano il tempo di una piena, cioè arrivava la piena, si portava via il ponte, finché poi non è stato costruito un ponte in ferro, però vabbè, insomma, non era epoca mia, ma insomma era il ponte in ferro, poi tra le altre cose era stato acquistato da privati, cosa che oggi sarebbe inimmaginabile assolutamente, no? Ecco, io chiudo, magari poi resto eventualmente a disposizione per altre domande, però posso, voglio parlarvi di magia, cosa c'entra la magia, ma vi posso assicurare che l'altro giorno uno dei ragazzi del paese è venuto a trovarmi e non so perché ho cominciato a parlare del libro dell'Arcipelago Vadena. E lui non sapeva nulla, niente, a zero, non aveva mai partecipato per vari motivi alla raccolta di foto, non sapeva nulla. Io gli ho dato il libro in mano, gli occhi si sono illuminati, questo è vedere che roba, illuminati, qualsiasi foto, lui è, insomma, originario di lì da sempre, a 30 anni circa, però ogni foto lui riconosceva le persone, i luoghi, la storia, si è veramente illuminato. Ecco, allora la soddisfazione me la voglio riportare a tutti quelli che hanno lavorato al progetto, perché effettivamente funziona, è proprio una questione un po' magica. Appena gli si dà in mano un libro dei ricordi, come i bambini diventano, si illuminano proprio gli occhi. Ecco, tutto qua. Grazie. Grazie a lei. Grazie al sindaco Beati. Una testimonianza da Lana, invece, Gabriele Agosti ha fatto parte del gruppo Arcipelago. Lana ne fa ancora parte perché state continuando, siete decisi insomma a continuare. Buonasera a tutti, Arcipelago Lana è stato per me un successo, veramente è costata tanta fatica, soprattutto all'inizio, perché siamo dovuti entrare nelle case con un po' di titubanza da parte delle famiglie, ma come vuoi vedere l'album, ma perché, ma come, ma dopo appena hanno capito di cosa si trattava veramente ci hanno dato di tutto e di più, abbiamo raccolto veramente migliaia di foto, non centinaia, migliaia. Abbiamo fatto una serie di serate, abbiamo fatto delle presentazioni, eravamo partiti rivolgendoci prevalentemente alla comunità in lingua italiana, ma dopo siamo riusciti a uscire dalla comunità in lingua italiana, a coinvolgere il paese. Vi assicuro, cosa che a Lana non era mai successa, c'erano le associazioni, c'era la parrocchia, le ACLI, gli alpini, il coro, ognuno lavorava nel suo piccolo. Con questo progetto siamo riusciti a presentare italiani fondamentalmente. Siamo partiti raccontando la nostra storia di tutti i giorni, abbiamo fatto vedere che poi si è dimostrato che è la storia del paese, insomma. Direi quasi che Arcipelago è diventato un marchio, perché se adesso chi si interessa un po' di queste cose, io parlo di Arcipelago, capisce subito il messaggio, insomma, sa di cosa veramente abbiamo fatto centro, ecco. Grazie, veramente un ringraziamento a tutti coloro che hanno fatto parte del gruppo di lavoro, anche a Enzo Nicolodi, Berlana, naturalmente tanti altri, e così vedo Emilia Marini che è molto si è impegnata in questo lavoro, Stefano Veneri e tanti altri. E passo la parola ad Alessandra Zeldron, che ha seguito in modo particolare il lavoro su Vadena, ma conosceva anche cosa abbiamo fatto a Vadena. Mm-hmm. Sì. Io mi siedo. Certo. Bene, insomma, avete sentito quasi tutto, però io insomma, ho alcune osservazioni da fare. E vorrei fare tre ordini di osservazioni, ma comincerei. Ho preso in mano l'elenco delle opere. Non si sente. Ah, non si sente? Allora l'abbiamo spento nel Allora io partirei dalla lista delle opere che sono state realizzate dalla Fabbrica del Tempo per inquadrare un po' come il significato che hanno poi, che ha il progetto Arcipelago. E la Fabbrica del Tempo nasce nel 1995, poi tu mi correggi quando, no? E ha prodotto una mole, quando uno ce l'ha tutta insomma elencata, veramente notevole, di mostre, di cataloghi, anche di CD-ROM, di libri e di DVD. E ha cominciato, diciamo, cercando svolgere un lavoro di ricerca e di testimonianza di quello che era piuttosto la presenza italiana, possiamo dire, all'inizio. E quindi ci sono state il Museo del Sommerore, è stato notato poi il contributo italiano alla storiografia tirolese, che era un convegno che è stato fatto nel 1997, e poi diciamo c'era una volta un villaggio che era sul esperienze di storia operaia a Bolzano, eccetera. Poi diciamo, c'è stato un altro gruppo di lavori di ricerca che ha riguardato, diciamo, l'industria, il tempo dell'industria, il tempo delle fabbriche, sull'Alumix, che è stato molto importante, perché diciamo, l'Alumix, questa ricerca, non mi ricordo l'anno, 2000, si è anche inserita in un periodo in cui c'è stata un'evoluzione nella mentalità della storiografia, del modo di fare storia, e quando diciamo la storia da esclusivamente o molto prevalentemente diplomatica e politica è diventata anche ha sviluppato un concetto nuovo, cioè il raccontare la storia voleva dire raccontare diversi punti di vista. Ad esempio, uno dei punti di vista che si è sviluppato e affermato nella città di Bolzano, visto che parliamo, è anche ad esempio quello delle donne, che una volta erano o escluse o marginali. Adesso a Bolzano c'è uno dei pochi archivi di storia delle donne di tutta Italia. È una realtà piccola ma molto forte, in questo momento sta facendo il censimento dei fondi femminili negli archivi già esistenti, e però anche si rivolge alla popolazione, a tutti quanti, perché i fondi femminili, le cose scritte, le fotografie, le testimonianze dell'esperienza storica delle donne nella nostra provincia venga, diciamo, conservata e venga data, donata agli archivi, possibilmente al nostro, però magari anche agli altri, ma non vada dispersa. E questo, diciamo, è un esempio più più abbastanza facilmente comprensibile, però diciamo la storiografia è fatta appunto di tanti altri punti di vista e diciamo raccontare, narrare una storia ha sempre, diciamo, significa sempre di più andare anche a guardare le esperienze piccole, le esperienze di piccoli gruppi, le esperienze particolari eccetera, e farle poi rientrare in una narrazione che comprenda tutti quanti. Una cosa che ha fatto, vorrei ancora dire due cose su questa parte delle fabbriche, perché poi hanno fatto anche la Lancia, la Viberti, quindi anche fabbriche che ormai alcune non esistevano più, e però diciamo anche un lavoro sull'energia, che è invece un'industria molto viva e molto importante per la nostra provincia, e con i lavori fatti soprattutto in Val Venosta. E quindi diciamo in questo sviluppo, in questo sviluppo del lavoro, secondo me in qualche modo, io non lo so perché allora non c'ero, lo seguivo come interessata, non c'era diciamo, forse un progetto preciso, però in qualche modo a guardarlo tutto adesso sembra che ci sia un progetto preciso, perché diciamo la ricerca dell'industria ha fatto sì che i protagonisti, cioè coloro che occupavano le fabbriche, magari anche dismesse, chiuse adesso oppure no, e comunque queste esperienze di vita diventavano degne di essere raccontate, diventavano una parte di questa narrazione. Lo devo dire perché ovviamente se pensiamo a come si parlava di storia, diciamo per quelli della mia generazione, quando si parlava di storia condivisa, di storia che si parlava sempre della storia italiani, tedeschi, c'erano due storiografie, non si parlava d'altro. In effetti, se ci pensate anche, diciamo, nel nostro dibattito pubblico politico, fino alla fine degli anni 70, si è parlato poco di altri argomenti, perché forse anche un po' più avanti, perché nel 72 c'è stato il secondo statuto d'autonomia, poi ci sono voluti 20 anni per attuarlo, e sono stati 20 anni che hanno trascinato il dibattito, diciamo, caratterizzato soprattutto da aspetti giuridici, dalla ricerca di queste norme di attuazione, anche di uno sviluppo di quello che era il progetto del cosiddetto pacchetto. Però l'effetto nel dibattito pubblico è stato che non si parlava d'altro. Infatti, non so, tornando alla cosa delle donne, ad esempio, c'era sempre un grande ritardo nella questione, ad esempio, femminile, ma in tantissimi altri argomenti non c'era spazio per altri argomenti, perché tutto era assorbito da quello. Quindi a maggior ragione quando oggi si parla di storia condivisa, ormai si dovrebbe essere, diciamo, non tanto in un fatto che dire se lavorano insieme gli storici italiani e tedeschi, che comunque è fondamentale, e anche ladini, ma diciamo, ci si inserisce in un concetto di storiografia in cui si deve fare spazio, includere tutte le nuove esperienze di vita su questo territorio. Io penso comunque che diciamo, la conoscenza della storia sia comunque uno degli strumenti fondamentali per creare una società pacifica che non sia solo tollerante, per cui ci si sopporta gli uni con gli altri, ma che sia consapevole della propria multiculturalità e quindi anche che sia capace di includere nuovi apporti umani e culturali. Per questo è bene conoscere le esperienze, diciamo, vere delle persone. E quando arriviamo al discorso dell'arcipelago Memoria, io ricordo che ne avevo sentito un po' e poi sono andata alla presentazione della mostra a Lana, e cosa che poi si è ripetuta forse ancora in maniera maggiore, ma forse perché io ero direttamente coinvolta, e la cosa che mi ha molto colpito era il coinvolgimento delle persone, e Forse questa è un'osservazione che avevo lasciato alla fine, ma la vorrei un po' anticipare. Io penso che oggi dobbiamo avere anche un concetto democratico della storia e della storiografia, e cioè che la storia non è fatta da alcuni storici che si leggono i documenti, anche se a me piace tanto andare negli archivi. A Baden è stato meraviglioso, c'era un freddo tremendo, però Cristo e io abbiamo potuto metterci su un pianerottolino dove veniva un raggio di sole, ci scaldavamo un po', ogni tanto scendevamo nel cortile e lì stavamo ore e ore. È un archivio meraviglioso, anche se è così piccolo. Veramente, poi io ci ho trovato tutta la storia della mia famiglia, che ha optato e poi ha rioptato, ma poi sono rimasti in Germania. Insomma, c'era tutto veramente. E lì si vede quanto quanti pregiudizi abbiamo, no? Allora parto proprio da questo punto qui. Allora, credo che tutti quelli che si sono occupati un po' di storia, e poi gli insegnanti, abbiano sempre sentito di questo grande scontro che c'è stato alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, sulla scuola, in la scuola italiana e tedesca nella Bassa Tesina, no? Perché lì c'era un po' di, e in particolare a Baden, no? Che era uno dei paesi che, in questo archivio noi abbiamo trovato le testimonianze proprio di come l'uso di una lingua o dell'altra non fosse un problema. Cioè, quando nasce nel 1820, ma no, dopo 20, 30, insomma, nasce il comune, e lì praticamente il primo segretario è italiano. Allora, il primo segretario è italiano e scrive in italiano. Quando c'è però una questione che riguarda Caldaro, che faceva parte di Lane, allora lui scrive in tedesco, è lui, perché scrive con la stessa scrittura su questi, è una cosa meravigliosa. E quindi vanno avanti per un bel pezzo. La scuola è anche, diciamo, molto tollerante, c'è un pezzettino tedesco, c'è la scuola italiana. La differenza era che i proprietari dei fondi a quel tempo erano quasi tutti tedeschi, erano Bolzanini nobili o comunque ricchi proprietari, invece quelli che lavoravano erano italiani, ma avevano tanti bambini, però non c'era problema, c'era appunto la scuola italiana. Così poi a un certo punto arriva il nazionalismo e allora si comincia a cercare di abolire questa e di avere l'altra. Allora ognuno va a fare ricorsi a Innsbruck, eccetera, e riesce. E una delle cose bellissime che abbiamo, che nessuno aveva mai immaginato, era che lì c'è stato anche un periodo in cui c'era la scuola bilingue, non riuscivano a mettersi d'accordo, allora facevano tre giorni in italiano e tre giorni in tedesco. Fantastico. Ecco, allora, la mia generazione, che ha un'idea esportabile anche questa, no? Sì. Da un secolo all'altro, sì. Ecco, non dico la mia generazione, che ha tanto sofferto per questa cosa delle scuole separate, e così poi io vengo da una famiglia, insomma, un po' mescolata, quindi era una sofferenza allinearsi di qua di là. E lì queste cose sono molto belle, però se non si fa il lavoro di ricerca proprio su questi piccoli ma preziosissimi archivi, e queste cose sfuggono, allora ci facciamo raccontare un sacco di storie che poi non sono così vere, no? Anche se poi lo scontro c'è per quello. Adesso però non voglio entrare nei dettagli, no? Non mi sembra che sia. E tornando a quello che volevo dire, a questo concetto democratico, io trovo che sia molto importante questo tipo di ricerca che fa questa associazione con cui io collaboro, ma non voglio prendere i meriti, così. Lo trovo molto importante perché penso che attraverso la testimonianza, la partecipazione, ma naturalmente deve essere ben chiaro anche la collaborazione di archivisti, di storici, che non facciano solamente una raccolta, diciamo, estetica. Noi li vediamo tante volte anche pubblicate così tante fotografie senza un contesto, cioè anche la fotografia racconta una storia, quindi deve essere contestualizzata, si deve riconoscere, si deve vedere che cosa vuole dire, che cosa significa, perché delle volte insomma è un po' come un documento, diciamo, isolato, che non riesce a raccontare questa cosa. E io penso che trovo insopportabile che, diciamo, nei tanti anni dell'era Durnwalder, che ha parlato di pacificazione, pensando che appunto il fatto di dedicarsi ai grandi affari fosse insomma un modo per pacificare, per non fare parlare dei problemi, in realtà l'agenda della discussione pubblica sulla tematica storica sia stata dettata da un lato dall'indifferenza di molte autorità nell'affrontare i problemi e dall'altra dalle marce degli Schützen, praticamente una reazione a queste cose, e invece così poco si sia investito nel fare una vera ricerca di quelli che sono i materiali. Adesso lo voglio anche dire, in particolare nel mondo di lingua tedesca si è anche andati avanti, perché oggi non c'è un paese e una frazione dove non ci sia un cosiddetto cronista, no? C'è questa rete di cronisti che è molto sviluppata e che è attenta anche a non fare sfuggire gli elementi per fare un racconto giusto da trasmettere ai giovani, no? Che non ne sanno. E invece, diciamo, nelle città dove è molto più difficile, io penso comunque anche in generale, per quello che riguarda ad esempio la presenza italiana, si è molto trascurata. Io devo dire che nel mio lavoro, diciamo, di storica e così, mi sono occupata di più di tematiche come le opzioni o Andreas Hofer, cioè queste cose, diciamo, più di storia, i nodi storici del mondo di lingua tedesca. E però penso che sia molto importante che anche se molto è andato perso, che si faccia un lavoro anche di raccolta delle testimonianze, dei materiali, per rendere possibile un equilibrio nella storia che si racconta. Io di questo devo dire che sono piuttosto preoccupata, perché diciamo, noi abbiamo fatto molti passi avanti, no? Vorrei anche dirlo poi in questi giorni, anche, mi sembra anche il momento di dire, dopo tanto soffrire sul monumento della vittoria, finalmente forse ci riuscirà a avere realizzato da storici bravi, appunto insieme italiani tedeschi, finalmente una soluzione con un museo lì dentro e così, no? Cioè, è stato proposto e accettato nel 1993 e poi Durnwalder l'ha messo nel cassetto e non l'ha mai più tirato fuori, nonostante le cose, era stata approvata la mozione, la commissione con presente la sovrintendenza eccetera eccetera, doveva andarci una parte della mostra sulle opzioni fatta nel 1989-90, che era poi in fondo il primo lavoro su una questione scottante, che era fatta da storici di lingua diversa insieme, no? Quindi, e quello è andato perso, però oggi possiamo dire finalmente, insomma, siamo felici che questa cosa finisca, la possiamo mettere in disparte. Però io penso che anche da parte degli enti pubblici ci dovrebbe essere proprio una urgenza di mettere risorse verso quelle pochissime realtà che cercano le testimonianze in maniera, e cercano i materiali da archiviare, i materiali da tenere, e che permetteranno in futuro di costruirla, di scriverla questa storia. Perché non basta avere qualche foto sui giornali, con tutto che è una cosa piacevole, perché diciamo, per scrivere la storia questo non è sufficiente, non è abbastanza. E non so se posso raccontare ancora due cose su Vadena. così qui c'è il sindaco che può così. E, Wagner è stato un lavoro che ci è molto piaciuto perché diciamo dietro c'era, diciamo, il lavoro forse principale è stato quello di, che è stato fatto dalla Fabbrica del Tempo, da Fabrizio, da Tiziano, dagli altri, di raccolta di queste fotografie e di catalogazione. Christoph e io abbiamo fatto il lavoro sulla parte storica, anche guardando veramente la storia lontana, che è stata piena di sorprese, di cose belle, parlando dalle regolazioni dell'Adige, dalle antiche, poi lui era bravissimo, è andato a cercarsi antiche cronache, descrizioni anche di cose, per cui oltre a quello che abbiamo trovato lì. E poi è stata comunque poi una grande sorpresa anche quella quando c'è stata la mostra e la grandissima qualità, questo lo voglio anche dire, rara, delle immagini che sono state proposte al pubblico, cioè le fotografie eccetera, veramente un team straordinario e sorprendente. E la stessa cosa, anche se un po' più in piccolo, è stata anche la mia esperienza di collaborazione con loro per quello che riguarda l'ippodromo di Maia, che anche lì è un piccolo pezzetto di arcipelago, diciamo, però io lo metterei in questo ambito, perché l'ippodromo di Maia è sempre stato visto con una certa distanza dalla popolazione di lingua tedesca di Merano, anche se poi una parte probabilmente ha partecipato, perché era diventato un grande ippodromo durante il fascismo, però in realtà cercando nelle carte si è visto che la passione per i cavalli e proprio l'offerta di di corse di cavalli e anche di ippica era nata alla fine dell'Ottocento come una componente importantissima dell'offerta turistica della città di Merano, che si era proposta come appunto aveva avuto questo sviluppo, diciamo, con il turismo, e però non aveva l'acqua calda, anche se continuiamo a dire che è una città termale, mi dispiace caro, ma non c'è, cioè, ho cercato le firme per un referendum per cui non posso, ecco, sono parte in causa, ecco, no, appunto a Merano hanno subito visto che l'acqua calda non c'era, mentre invece c'era a Spa in Belgio, da cui il nome Spa, che è già. E poi in tutte le città d'Europa dove c'era l'acqua calda, l'acqua termale, c'era perfino ai termini di Brenner, no? Invece qui, allora lì hanno dovuto inventarsi delle cose, perché comunque era venuta la principessa Sissi nel 1880 e quindi questo aveva. E allora si sono inventati le corse con i cavalli, anche si sono inventati i cavalli avellinesi e poi le corse con i cavalli avellinesi, e poi è andata avanti con un'offerta di corsi per le nobili donne, i nobili uomini che arrivavano, che imparavano ad andare a cavallo, quindi c'era una forte tradizione, poi era andata avanti, poi durante la guerra era successo tutto quello che è successo, all'inizio degli anni 20 c'è stata anche una ripresa in attesa, e poi però c'è stata di nuovo la crisi, perché c'era poi la crisi economica mondiale, e lì la risposta era stata, diciamo, che alcune persone molto importanti erano riuscite a convincere il governo a costruire questo meraviglioso impianto, no? Perché era un impianto straordinariamente bello e grande, con un architetto famosissimo, eccetera. E quindi praticamente, diciamo, c'è anche una ricomposizione, e non, diciamo, quella cosa che io come Bolzanino ho sempre pensato, il fascismo ha costruito l'ippodromo di Merano e i meranesi non lo volevano, invece non era così, ma c'era comunque una continuità, poi diciamo non ha sempre avuto un non voglio, un po' sono un po' caotica oggi, però non volevo dimenticare, vorrei dire due cose anche sulla questione delle opzioni, delle lettere, insomma, delle lettere scoperte da Fabrizio, che potrebbe anche dirci qualcosa. Credo che questo sia stato uno dei momenti più commoventi per me, più importanti, cioè la scoperta, quindi è un lavoro diciamo di ricerca, è un lavoro di coinvolgimento della gente, è un lavoro, diciamo, democratico che coinvolge le persone nel ricostruire la storia, però anche un lavoro che cerca negli archivi importanti, e qui la Fabbrica del Tempo ha scoperto a Roma, nell'archivio centrale dello Stato, nel fondo del Ministero dell'Interno, migliaia e migliaia di lettere che erano state spedite dagli optanti e le loro famiglie, e che poi sono state tradotte, intercettate dalla polizia fascista, in parte tradotte, c'era uno stuolo di traduttori, in parte tradotte nelle parti interessanti per, che si consideravano interessanti per il regime fascista, e poi depositate lì. Non esiste più l'originale, e però c'è questa immensa quantità. Allora, una parte di questo, con l'aiuto e la collaborazione di Christoph von Hartung, che a un certo punto, diciamo, diventa, mi sembra, molto importante, e cambia anche forse un po' la storia della Fabbrica del Tempo, e sono state appunto presentate, studiate, scelte, pubblicate in due volumi molto importanti che sono molto, ecco, questo è una cosa molto importante che dà un contributo fondamentale alla storia sudtirolese, secondo me, perché, diciamo, anche se non c'è l'originale, però, diciamo, in qualche modo permette di entrare veramente dentro le vite delle persone, dei veri sentimenti, che sono molto contraddittori, molto sorprendenti, proprio uno non si aspetta, no? Ci sono quelli che sono a favore, quelli che sono contro, quelli che dicono non venire, quelli che dice invece, cioè praticamente è proprio al di là di tutto quello che è stato per tanti anni il silenzio oppure la mala interpretazione, queste lettere ci permettono veramente di entrare in contatto profondo con il cuore, con la mente delle persone, cioè di conoscere le persone che hanno fatto da una parte e dall'altra questa esperienza terribile, non solo, insomma, è terribile anche perché è poco condivisa, perché c'è una tale lacerazione, tante fratture e così, quindi credo che sia un contributo molto importante che è stato molto bene capito, e su questo mi sembra anche un'operazione molto molto buona questa invece di questo libro uscito da poco, da un paio di mesi, Le lettere rilette di Mitke Lesen in Pefe, in cui Ulrike Kindl, che è un docente di letteratura di germanistica all'Università di Venezia, ha tradotto queste lettere, ha ritradotto in assenza dell'originale un po' di queste lettere in tedesco, che ovviamente non vuol dire che ha restituito l'originale, però in qualche modo permette anche a persone di lingua tedesca che, insomma, di entrare, di avere un'immagine di quello che è stato, di quelle che erano queste lettere qui. E poi appunto un libro molto, molto bello, perché ci sono appunto anche tanti contributi così. E volevo dire ancora una cosa, l'ultima, e che è questa: a un certo punto nella storia dell'associazione La Fabbrica del Tempo, guardando la lista che mi hai mandato, completa, quasi completa, salvo l'ultima, ho trovato, mi è saltato all'occhio una cosa interessantissima, e cioè, finché si parlava di storia e di esperienze che riguardavano soprattutto o prevalentemente o volutamente l'esperienza, diciamo, italiana, degli italiani, le pubblicazioni sono in italiano. E poi a un certo punto il fatto di occuparsi dell'arcipelago, cioè di occuparsi delle realtà così come sono, fa sì che le pubblicazioni diventino diventino bilingue, e io penso che sia questo, che nel momento in cui ci si occupa di una realtà, visto che si viene in contatto con diciamo, testimonianze, realtà bilingui che riguardano il territorio, e diciamo, viene naturale quello di restituire poi la raccolta dei materiali e il ragionamento che ci si fa sopra nelle due lingue. Mi sembra veramente un processo molto che mi ha molto colpito per la sua quasi naturalità, no? per la sua spontaneità, che è anche un po' il processo che noi ci auguriamo della storiografia del Sud Tirolo, che diciamo è partita con le cose in tedesco, le cose in italiano, gli uni contro gli altri armati. Tutti noi abbiamo letto in Campi in Roma tutte le cose, tutte, insomma, quando io ero giovane, tu invece non eri ancora nata. E appunto questa invece adesso effettivamente quasi non si può raccontare una storia se non in due lingue, almeno due, e penso che questo sia, diciamo, viene fuori abbastanza presto, perché viene fuori anche già con la parte dell'energia, no? dell'industria elettrica, eccetera. Quindi mi sembra, insomma, una cosa molto, diciamo, significativa, che pone questa associazione come una, o forse una rara, anche perché purtroppo non è che ci sia tanto, che fa effettivamente un lavoro di ricerca storica di materiale, così, che io ripeto è indispensabile, e che è anche molto preoccupante che non sia non venga maggiormente incentivata, sviluppata e sostenuta da parte delle pubblici. Adesso non parlo del comune di Bolzano in particolare, no? Che fa quello che fa, ma parlo proprio anche a livello provinciale. Effettivamente c'è stato un abbandono. Voglio ricordarvi qua le Storia E, la rivista della sovrintendenza, una rivista importante che era presente in tutti gli istituti di storia delle università italiane, che è stata cancellata da un giorno all'altro. Il laboratorio di storia, anche quello della sovrintendenza dell'istituto pedagogico, anche quello è stato chiuso. E quindi penso che dovremmo riflettere sul fatto, se non abbiamo più bisogno di storia. Io personalmente sono convinta che abbiamo bisogno moltissimo, soprattutto di questa storia che possiamo comunicare con le persone, proprio per essere in grado di riflettere su noi stessi, e anche di includere, di coinvolgere gli altri, altri soggetti diversi, altre esperienze diverse che appunto non appartengono, non hanno radici, ma che hanno il diritto di costruirle qui insieme a noi nel luogo dove abitano. Sono finita. Grazie. Grazie Alessandra, solo due piccolissime riflessioni. Christoph Hartmann, una volta, quando ha iniziato a collaborare con noi, credo che fosse ormai ancora parecchi anni fa, a Merano, disse «Der Bach Idiot ist ein Idiot auch in seinem Fach». Penso di doverlo tradurre, no? Cioè, l'esperto di un argomento in realtà non è esperto neanche di quell'argomento. Cioè, a dire, bisogna occuparsi anche di cose diverse. Questo è uno degli insegnamenti, uno dei tanti che Christoph ci ha lasciati, che abbiamo cercato ovviamente con i limiti nostri di applicare anche questa realtà. L'altra riflessione, e se posso legarmi a quello che dicevi tu, delle pubblicazioni bilingui, dovute anche a un altro fattore, cioè nel momento in cui l'associazione nasce, chiaramente ha anche delle difficoltà di carattere economico. Una piccola associazione ha maggiori difficoltà a sostenere dei costi di pubblicazione. Nel momento in cui riusciamo un po' alla volta, direi grazie all'aiuto di Fabrizio Miuri, decisivo, e di tanti altri amici, a continuare questo lavoro, quindi ad andare oltre quella che poteva essere la proposta iniziale, a insistere su diversi lavori, si riesce anche a raccogliere una quota di finanziamenti che ci permette di fare le pubblicazioni bilingue. Io sono molto cortese, però segnalo che noi abbiamo avuto un calo del 40% dei finanziamenti provinciali, che stanno, non dico mettendo in dubbio la possibilità di lavorare in termini bilingue, però insomma, voglio dire, purtroppo nel momento in cui aumentano i costi e diminuiscono le capacità di raccolta in un periodo come questo, voi sapete, a livello anche di sponsor, sia molto difficile lavorare, non penso di doverlo spiegare a nessuno. Ecco, questo chiaramente è un punto sul quale dobbiamo certamente discutere e spiegarci. Penso che l'assessora ci ha pregati di rimanere fino alle 9 su questo tema. Noi adesso faremo vedere un filmato, non so se lei potrà, ecco, beh, rimanere un'ora è un record, un assessore che rimane un'ora è una cosa che non si vede mica tutti i giorni, quindi voglio dire da applauso sinceramente, grazie ancora. Io vi ringrazio, grazie. Grazie. Noi adesso facciamo vedere un estratto, una serie di piccoli estratti da Arcipelago Wagner e da Arcipelago Lana. Si tratta di una minima parte del materiale che abbiamo raccolto, ma è per far vedere ciò che è stato fatto e esempi di questo genere. L'esperta qui è Marina, quindi io cedo immediatamente. Non datemi. Il primo sindaco è stato messo dai tedeschi dopo l'8 settembre 43. Ha cominciato praticamente col 1 gennaio 44, è rimasto fino al 30 maggio del 45, data in cui finì la guerra. Si chiamava Luis Nicolussi Lec. I sindaci sono stati dal 45 il signor Mosna Giuseppe, dopo appena finita la guerra, poi dal 48 Alberto Mosna. Era il figlio del primo sindaco, il quale è rimasto per 23 anni senza prendere una lira di compenso, perché allora non c'era il compenso. Poi è venuto il suo fratello Alfredo, il quale ha cominciato a ricevere il primo compenso di 500 lire al mese, è rimasto a una decina d'anni. Poi dopo l'Alfredo è venuto il Carlo Mosna, sempre tutta la famiglia Mosna, tutta una parentela, prima il nonno, poi il papà, poi il fratello, poi il figlio. E poi è venuto ultimamente quel sindaco attuale. Perché una volta stavo costruendo un muro lungo la strada, è arrivato quello della provincia e mi ha detto: guardi che non puoi finire il muro se non hai permesso. Ma ho detto: finisco questo po' di cerchio. No, niente. Allora ho preso una bicicletta, sono andato dal Corbella e dice: cosa c'è? E ho detto: ti vuole il permesso per fare il muro? Ho fatto i lavori. Allora mi ha detto: da, ho messo sul timbro, arrivederci. Poi giù, l'altro è venuto ancora una volta pomeriggio e dice: permesso è qui. Puoi fare il muro fino a che vuoi adesso. Ho fatto tutto il Corbella. Oggi per fare il muro. E allora c'era il sindaco Mosna Giuseppe, il primo sindaco, hanno fatto una riunione, c'era il preside delle scuole di Bolzano, c'era il rappresentante, mi sembra, della provincia, 4-5 persone, le quali volevano costruire le scuole in mezzo alla valle. E io l'ho detto al sindaco Mosna: ne dica, perché loro dicevano che là c'è più luce, e io le ho detto: le dica che la luce c'è anche qui, le facciano qui nel centro, nel piccolo centro, perché dalla parte sud parte Birti, dalla parte nord parte Masetta, eccetera, e poi dal ponte di Wagner, e lì proprio si incontrano tutte le strade, no? E poi non rovinano campagna, e poi lì è un bel posto, e infatti le hanno costruite lì e hanno fatto bene a costruire lì. Una volta era molto faticoso perché si lavorava tutto a mano, si ricominciava a raschiare le piante vecchie, si doveva raschiare per tirare via la corteccia e si annidavano degli insetti. Poi c'era da mangiare intorno al tronco, ognuna col badile, le belle, mangiate bene. Tantissime cose che non si fanno più, nelle vigne si dovevano buttare sul terreno d'inverno, cartina, cacciare a mano. Poi abbiamo comprato le facciatrici e ci sembrava essere più ricchi del mondo. E c'era anche del tormento da fare, c'era anche del tabacco da fare, tutto a mano comunque si faceva. Adesso lavori pesanti in campagna non si fanno più. Ma c'erano vini anche strani, migrare, e poi prima avevamo noi la vernaccia bianca, poi abbiamo piantato borgogna nero, ce l'avevamo, abbiamo un borgogna bianco, un blender, solo che il blender era buonissimo, a uva però non ci facevano quintali, allora ci volevano anche i quintali, e pesare l'uva, quando eravamo in tanti, preparavamo i cavi, si staccava i buoi e a mano si faceva il giro del giardino per entrare in cantina, però man mano che uno arrivava segnava il numero perché non si passasse davanti all'altro che era arrivato prima. E delle sere c'erano qua magari 30 cavi anche in fila uno con l'altro, perché ognuno di noi aveva magari due cavi o tre con l'uva. Ah, altri tempi. Beh, quella del tabacco, anche quella era la prima, appena venuti noi. Tabacco, guerra e anche la chiesa seca, qui è stato proprio i primi. Il tabacco si doveva, era segnato penso dalla pianta, non sono sicuro, perché mi sembra che ogni pianta arriva, dovevamo consegnare 12 foglie. Per ogni pianta, e le piante sapevano quanto erano e noi dovevamo portare tante migliaia di foglie, insomma. Il tabacco, non ci ha pagato la multa a noi, perché passava le finanze. Se ogni 8 giorni non eri in mezzo al tabacco, arrivavi i fili, passava sempre la cosa. E poi qualcuno, anche in Europa, qualche foglia, magari la tredicesima foglia o non so quale, metteva via perché fumava per mio padre, e una volta so che è andato a nascondere un po' su quella montagna, però dopo non si è più ricordato dove era, o che fumava più di sassi e non l'abbiamo più trovato. Poi c'era di quei che tirava solo le foglie, mi riportava su per la montagna, c'è tacco, fa su tacco, ci trova le sigarette io, no? E mio papà invece aveva il masnì del caffè, se non sveglia per tabaccare, e invece si vede che sta nella spia, mio zio era portato in mezzo al fieno le foglie di tabacco, era grande, sai, così, perché mio che non mi vedeva neanche fuori se mi venivo dentro, e per scappa che non fa la spia arriva le finanze a capano la mezza per una volta, sì. C'era un ponte di legno. L'ha portato via la piena dell'Adige. Però il ponte, dal 26 è andato giù il ponte. Abbiamo dovuto venire da ora noi. Nel periodo che mancava il ponte di ferro, dal 24 al 27, credo che c'era una barca che spostava le persone al ponte di Varena. Però qui da Brontolo, perché non era il ponte, veniva qua con la barca. So che doveva pagare qualcosa in più qui da Brontolo, veniva di Varena. E noi scolari ne passavano per niente. E il ponte là, io mi ricordo, quando era cominciato dal 26 del ponte, dal 27-28, che era un amico a scuola che andava a lavorare e guidare le guide. E noi quando venivamo fuori da scuola, nei vecchi nel vedere del Gigio Marchetti che era in cima al ponte. E andava sempre lì. E poi il tempo di guerra è stato centrato nel bomba per andare a Ora sul Draghetto, oppure Barca, insomma. E il treno passava sul ponte di legno. E poi, nel 1927, è stato costruito un nuovo ponte in ferro. Invece adesso ti dico io, del 62, questo che era ancora nel ponte, e impartare le bestie della montagna. E l'acqua dell'Adige le è venuta fino ai castelli e mezza testa da qua, i pugni bassi partiti tutti. E mi furba sono a cavarmi le patate al fondo e gli recarono le bianche venute che le aveva salvate. Dopo dal 64, allora il Garrotto Grande, stadio, no? Allora le venivo da alta che non so, il primo piano del casone come scappare, tutti, come tutti qua. Lei era venuta fino al primo piano del casone, che lui doveva prendere, rompere il pianerottolo per porsi sull'acqua per mangiare. E poi per farsi da mangiare, perché era tutti i fusoli intorno ai casi qua. E li tagliava tutti i fogliori, perché se te guardavi anche al casone, che era sempre una fare così, no? E si tagliava tutti i fogliori per farsi da mangiare non so per quanti giorni. Ogni magazzino aveva un gruppo di ragazze che andavano a lavorare in magazzino, che loro non erano attrezzati come oggi, che hanno macchinari che fanno quasi tutto. Le abette devono solamente sorvegliare, allora dovevano fare tutto a mano, alzare le cassette, mettere sui banchi, sceglierle, classificarle, imbaccarle, e fare tutto a mano. Allora avevano bisogno di molta manodopera e qui non c'era sufficiente ragazze nel posto, hanno bisogno moltissime ragazze al giorno. Ogni magazzino era un gruppo consistente. Infatti noi, ricordo la ragazza, andavamo sempre a ballare dalle nonne, dicevamo, no? Quindi eravamo in magazzini, perché i magazzini davano a queste ragazze anche l'alloggio. E nel loro alloggio andavamo noi a divertirsi un po', insomma. Pensa come niente di male, insomma, è naturale che i ragazzi a 20 anni hanno bisogno di divertirsi solo. Un'altra stagione estiva, noi come ragazzi qui di Dana andavamo sempre a fare le cassette dei magazzini. In parte si facevano le cassette nuove e si pagavano, si lavorava a contratto, c'era un contratto a pezzo. E in parte si facevano riparazioni di casse vecchie e lì si pagavano a ore. Le Spitzleder, le Plattleder, le Edelrot, le Weisse Rosmarin, ma tante, perché queste non ci sono più queste qua. Oh, la mela, senta, la piatta di Bressanone era piatta, era grigia, no? Come le Spitzleder sarebbe stata la ruggine, no? E questa era la piatta di Bressanone, era una squisitezza che non le dico. Buonissimo, sa? Un sapore che non ho più trovato in nessun'altra mela. Poi mi piaceva molto la Canada. La Renetta Canada, che fanno solo in Val di Noma adesso, qui non fanno più, qui hanno tutto cambiato, per esempio la Jonathan non la fanno più perché dicevano che era una mela che non resisteva molto, no? E hanno fatto la Jonathan a volte invece un incrocio, no? Erano più di 100 e più di 80 di pere che pensi che adesso ci sono ancora, io ce l'ho lì, la pera Abate Fiatel, la coscia di dama, la duchessa Balle, dico non so quante. La mia passione è la tranvia. Allora io ero sempre lì in adorazione. perché sto sferagliare lungo il paese. Oh, che meraviglia, che meraviglia, che meraviglia! E poi quando lì in Piazza Tribuno c'era, mi ricordo che nel 43 è venuto un Pino Talamoni, si chiamava Giovane Sboccia, lo chiamava mio padre, no? E allora io andavo lì in piazza, no? E dicevo, senti Pino, mi lasci fare lo scambio con quell'attrezzo a T che avevano, no? Diceva, te sei matta, dice il vecchio me e me le dà, no? Perché lì veniva giù, sa? Dall'ana di sopra, attraversava l'ana di mezzo così e andava giù davanti a Zurek, perché portavano le albicocche davanti, c'era storia. Allora si fermava il traffico perché attraversava tutta la curva, no? Capisce? Andiamo fino a Posta e lì c'era un macaco che si girava, che anche doveva servire a... Allora quello me lo lasciavano fare perché non si vedeva nessuno. Allora spostava il macaco. Poi venivo su, qui era sopra, no? Quella volta c'era questa postazione, signor Nicolodi, no? E allora questo dicevo, papà, senti, perché lo scartamento di Merano non è come quello di Lana Posta? E lui mi ha spiegato. Perché il tram di Merano non c'entra per niente con le ferrovie, invece noi con i nostri vagoni attacchiamo alla ferrovia, apposta non si attaccavano ai merci, no? Ecco, allora lo scartamento normale, e questo invece il del Merano era scartamento ridotto. Diciamo 50, avevamo anche delle squadre di calcio di fortuna, diciamo. Noi ragazzi per giocare a calcio andavamo qui alla Lent, che era un'area dove in cui gli anni arrivavano i tronchi di legna tagliati da due metri di un metro, andava all'ultimo lungo il fiume con i trasporti con l'acqua, e poi la cosa di queste piazzate, e poi quando che la fase del cartone sgomberava la piazzale perché portava giù nel suo stabilimento il cartone, il legno per fare il cartone, noi andavamo lì a giocare a calcio, e quindi era tutto la nostra area disponibile, mentre invece oggi campo sportivo principale per gli allenamenti, insomma oggi c'è stato tutto uno sviluppo sportivo molto molto significativo, mentre allora non c'era niente. È stata fondata anche quella dal maestro visitante, no? Il gruppo Alpini, proprio l'altro giorno quando si è fatta una festa giù alla Casa Sociale, ha ricordato lì l'attuale presidente Vino Seppi, ha ricordato che è stata fondata lì negli anni 50 dal maestro visitante, poi dopo il Vino Zanier. Per quanto riguarda la costruzione, mi ricordo benissimo che andavamo in tanti ragazzi a aiutare, quando fatti gli scavi, a portare sassi per il materiale per la costruzione, piccoli badini, insomma anche se eravamo dei ragazzi, per dire insomma che si è fatto un po' tutto, tanto, non tutto, tanto con l'aiuto della popolazione, sia ragazzi che adulti. E mi ricordo benissimo che c'era Don Pierino che andavamo fuori nel Masura a prendere sassi per costruire la casa, si tirava sulla tonaca e aiutava anche lui a caricare sul trattore tutti i bambini e i ragazzi, e poi portavamo su, scaricavamo lì, e insomma così un po' entusiasmato questo lavoro per realizzare qualcosa per il gruppo italiano. Il coro è nato con l'avvento ad Anna di non decimo parlavo a fare le prove dentro in gola nella cava di un certo Leonardi. Poi dopo ci siamo trasferiti lì al Mar Veneto e allora c'era maestro del coro un certo Caosi. Anche senza microfono, volevo ricordarvi due cose: da un lato ringraziare chi poi ha realizzato questo insieme di filmati, Maurizio Tiglieri e Silviano Gazzero hanno predisposto questo materiale, e poi abbiamo fatto una piccola sorpresa a Bolzano, diciamo non è strettamente legata ad Arcipelago Memoria, ma sono materiali che provengono da archivi privati, in particolare dall'archivio Muori, come a dire che se c'è un gioco di squadra, beh, si possono fare tante cose, e su Arcipelago Memoria e su altro. Grazie ancora, arrivederci. Thank you.